Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come già hanno ricordato i nostri GR, a sorpresa ma nemmeno tanto, l'incontro nel pomeriggio tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Tremonti, dopo le tensioni non negate dallo stesso Presidente del Consiglio che hanno accompagnato poi i titoli anche dei giornali del fine settimana, immaginiamo che si cercherà poi appunto di trovare un punto di equilibrio tra la manovra finanziaria e anche i mal di pancia e le lamentele di alcune regioni, gli enti locali, soprattutto la polizia, il blocco del tredicesimo, insomma tutti i vari temi che hanno creato anche tensioni di carattere politico. Però non l'incontro appunto è nel pomeriggio e non è ancora dato sapere se ha sortito qualcosa. Quello che sicuramente è successo dal punto di vista della cronaca è che l'Istat ha fornito i dati sui consumi, ne parleremo in apertura con il ministro Brunetta, meno 1,7% i consumi degli italiani nel 2009 in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Ebbene, su questo l'Istat fa notare che da 10 anni che non si vedeva un calo del genere nei consumi reali, a significare che comunque gli italiani hanno speso meno. Poi vedremo anche perché, o cercheremo di capire perché, se solo perché hanno meno soldi in tasca o perché, viste le prospettive dell'economia, vogliono tenersi prudenti, quindi tenere i soldi in banca o sotto il materasso. Comunque, questa è la notizia per quello che riguarda l'Italia e l'Istat. C'è anche una notizia che riguarda invece l'Alitalia, perché oggi è intervenuto l'amministratore delegato dell'Italia Rocco Sabelli ricordando che non sono previsti aumenti di capitale per la compagnia di bandiera, non è nei piani una fusione con Air France, il tutto nel giorno in cui ha annunciato all'Italia di essersi unita alla joint venture transatlantica con Air France, KLM e Delta Airlines, per cui una vera e propria fusione operativa per quello che riguarda la rotta transatlantica, la rotta verso gli Stati Uniti e il continente americano in generale, e anche di questo parleremo, così come parleremo dei conti di Alitalia, un po' che non trattiamo il tema di Alitalia. Ancora sui mercati, meno 1% in questo momento la borsa, Milano è la peggiore, nel senso che Parigi perde lo 0,17, la Francoforte è invariata, Londra è invariata, l'America oggi è chiusa e quindi le borse viaggiano senza Wall Street. Tra l'altro Milano, come già si è notato, è tra le peggiori borse assieme a Madrid da inizio anno. C'è un motivo specifico, e cioè a Milano, molti di voi ce lo chiedono spesso, i titoli bancari pesano moltissimo nella composizione dell'indice, per cui è chiaro che se vanno male le banche in Europa, da noi questo si sente di più sull'indice FTSE MIB complessivo, perché il peso delle banche è molto forte. Anche oggi negative le banche, meno 3% il Banco Popolare, meno 1,90% la Popolare di Milano, meno 1,80% Intesa San Paolo, meno 1,5% Generali, Snam meno 1,3%, e ancora chiaramente Snam non bancario. Tra i non bancari segnaliamo Telecom Italia che perde l'1,4% e Saipem che perde il 2,43%. Cala non tantissimo, ma insomma cala anche oltre a Mediobanca dell'1,2% anche Unicredit dell'1,1%. Infine, sul fronte di chi invece guadagna qualcosa, oltre a Bulgari più 0,5% e Steam Microelectronics più 0,80%, è molto forte Atlantia più 3%, qui ci sono anche, c'è il tema dei pedaggi autostradali, Autogrill più 1,6%, Unipol più 1,3%, Pirelli più 1,3% anch'essa. L'ultima nota di mercato riguarda l'euro. L'euro è in rafforzamento sul dollaro a quota 1,25, per quello che è il livello 1,2522, quindi stabilmente sopra quota 1,25. E allora di questo parleremo Oggi, per raccontarvi la cronaca della giornata economico-finanziaria, c'è il numero per i vostri sms che, come sempre, è 349-238-6666. Allora, volete sapere per alcuni versi perché è chiuso Wall Street? Si festeggia l'Independence Day, altri citano il meno 1,7%, non è un gran calo, è solo l'1,7%. Attenzione, è un dato aggregato, in realtà è, più che la percentuale conta da quanto non si vedeva un calo del genere, e appunto da 10 anni a questa parte i consumi non calavano in termini reali dell'1,7%. Andiamo avanti con i mercati. Il petrolio è in leggero rialzo, ma sempre a quota $72,70 al barile. Continuano a lievitare invece i costi per la British Petroleum per fronteggiare i danni della chiazza di petrolio. Chiazza è una marea nera, quella del Golfo del Messico. Allora, la British Petroleum ha annunciato di avere già speso 3 miliardi e 120 milioni di dollari per fronteggiare i danni della marea nera nel Golfo del Messico. Ieri, tra l'altro, due sistemi messi in azione hanno permesso di recuperare 25.000 barili su un totale di 585.000 barili raccolti dopo la minaccia ambientale. E domani la gigantesca nave raccoglie petrolio taiwanese, E-Whale si chiama, inizierà a ripulire centinaia di migliaia di barili d'acqua oleosa al giorno. Cina continua a scricchiolare forse un po' forte, ma insomma qualche tensione in Cina si registra. Non è solo il dato diffuso la settimana scorsa sulla crescita dell'economia cinese che tanto ha spaventato i mercati lunedì. Oggi è l'indice di HSBC che misura l'andamento del settore dei servizi in Cina, è sceso ai minimi da 15 mesi nel mese di giugno, confermando in questo modo il rallentamento dell'economia cinese. Veniamo all'Italia, perché Italia, ma alle multinazionali, perché è uscito il rapporto consueto dell'indagine RS di Mediobanca sulle 374 mega imprese, le imprese giganti a livello mondiale. Beh, si è scoperto che nei primi 3 mesi del 2010 il fatturato di queste imprese, cioè prese tutte le multinazionali del mondo, il fatturato è cresciuto del 22%, quindi forte rimbalzo rispetto ai primi 3 mesi del 2009. In grado quasi per le multinazionali di recuperare quasi tutto, perché il calo, se non ricordo male, nella produzione industriale e nel fatturato era stato intorno al 25%, però insomma fortissimo rimbalzo per le grandi imprese mondiali. Le imprese italiane viaggiano ancora però più lentamente rispetto alla media mondiale. Perché nel dettaglio il settore energetico è quello che ha guidato la ripresa delle multinazionali, più 46%, poi i mezzi di trasporto, quindi autovetture ma non solo, più 32%, pneumatici e cavi più 24%, chimico farmaceutico più 23% e utilities più 22%. L'unico settore in flessione è quello dei materiali da costruzione, meno 6%, e anche le telecomunicazioni recuperano in maniera abbastanza modesta, più 0,3%, ma attenzione, il settore telecomunicazioni era calato pochissimo nel 2009, non aveva praticamente risentito della crisi. Le italiane, dicevamo, non sono così brillanti come le multinazionali a livello mondiale. Fiat più 15%, Finmeccanica più 3%, Prysmian e Pirelli più 5%, Prysmian più 16%, fatturato di Pirelli contro un 24% del settore in media, Parmalat più 6% contro un settore alimentare che a livello mondiale ha fatto più 11%, Eni più 5% contro un settore energetico che appunto ha fatto il 46%. In difficoltà Italcementi e Buzzi Unicem con flessioni nel giro d'affari importanti sempre nei primi 3 mesi dell'anno, meno 11% Italcementi, meno 22% Buzzi Unici è nettamente più ampio queste flessioni di quanto non sia il calo complessivo del settore delle costruzioni, che è un meno 6% nei primi tre mesi. Quindi diciamo le italiane presenti nel gruppo delle grandi multinazionali perdono più della media quando la media cala e guadagnano meno della media quando la media cresce nei vari settori che abbiamo citato. Volete sapere dell'incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che si terrà ad Arco? Da quello che abbiamo capito doveva iniziare alle 16, ma non ci sono ancora agenzie, notizie, nulla in giro. Restiamo in tema di imprese, ma per parlare di contraffazione. Perché mercoledì sarà la giornata organizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche dal Ministero degli Affari Esteri, scusatemi, e dalla Confindustria, giornata nazionale per la lotta alla contraffazione, il 7 luglio, mercoledì. Ebbene, oggi già un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato come, secondo il Censis, il mercato del falso ha un fatturato che supera i 7 miliardi di euro solo in Italia, il che genera per lo Stato un mancato introito di oltre 5 miliardi di euro, una perdita di almeno 130.000 posti di lavoro. L'Italia poi vanta il poco invidiabile primato di essere il paese che ha il maggior numero di prodotti nel settore alimentare contraffatti, imitati, con un giro d'affari complessivo di oltre, a livello mondiale, 36 miliardi di euro. E questa era l'ultima notizia che avevamo. 349-238-6666 per i vostri sms. L'Italia non è più compagnia di bandiera? Sì, non nel senso stretto, però insomma, sempre rappresenta l'Italia, sempre rappresenta la compagnia nazionale, visto che si è fuso poi con Air One. Comunque, al di là di questa nota, il primo tema, i consumi degli italiani, l'indagine diffusa oggi dall'Istat relativa a tutto il 2009 ed è l'unica, al di là delle indagini qualitative, che noi possiamo prendere come riferimento a livello appunto statistico. Sarà anche poco, secondo alcuni di voi, un meno 1,7% in termini reali, però ripeto, attenzione, il primo calo da 10 anni a questa parte, e quindi dal 2000, dal 1999, perché è il dato del 2009, il primo calo, dicevo, nei consumi delle famiglie italiane. La spesa media mensile per famiglia è stata pari infatti a 2.442 euro e appunto quello che sorprende, lo dico perché vedo già chi vuole polemizzare, quello che sorprende non è l'entità del calo, è il calo vero e proprio. Tra l'altro la differenza tra quanto spende una famiglia in media al mese in Lombardia o comunque nelle varie regioni italiane resta alta. La differenza tra quanto spende una famiglia lombarda e una famiglia siciliana è di 1.200 euro, cioè siamo a 2.918 euro per la famiglia lombarda contro i 1.721 euro della famiglia siciliana. I primi tre sono come spesa Lombardia, poi il Veneto 2.857 e l'Emilia Romagna 2.800 euro. E appunto l'ultima invece la Sicilia. Le famiglie di anziani poi spendono molto meno rispetto a quelle giovani, un 25% in meno rispetto a nuclei familiari formati dai cosiddetti giovani adulti o anche adulti giovani. Sale invece la spesa per i mutui, 510 euro in media al mese. Vuol dire per 2.900.000 famiglie, siamo intorno a questa cifra, 510 euro al mese. Nel 2008 si pagava meno per il mutuo, 465 euro al mese. Strano questo, perché i tassi di interesse sono bassi, per cui sarebbe dovuto calare il mutuo evidentemente, o sono cambiate il tipo di spese o il tipo di acquisti, però il dato ci risulta abbastanza strano. Comunque, sul perché delle scelte compiute dalle famiglie italiane nel corso del 2009, la nostra Anna Marino ha intervistato Carlo Trigilia, che è docente di sociologia economica all'Università di Firenze. Sentiamo il perché. Credo che sia l'onda lunga della crisi che arriva a colpire più pesantemente i consumi delle famiglie. La spesa media mensile per le famiglie è diminuita dell'1,7%, ma soprattutto quello che colpisce è quel 3% in meno nella spesa alimentare, perché quando si toccano i generi alimentari, che di solito sono rigidi, vuol dire che si sta raschiando il barile. Questo vuol dire che cambia la modalità di approccio ai consumi degli italiani, definitivamente? Quando ci si abitua poi a dover risparmiare, a dover servirsi di canali distributivi differenti, per esempio colpisce nell'indagine il fatto che si diffonde sempre di più l'uso del supermercato, non solo per l'acquisto di generi alimentari, ma anche per l'acquisto dell'abbigliamento. È un po' meno presente questa tendenza nel mezzogiorno, probabilmente anche per la struttura dell'offerta distributiva, può lasciare probabilmente tracce. Quello che colpisce è anche che rimane stabile la spesa per consumi non alimentari, però è legata sempre di più a condizioni come per esempio l'energia per l'inverno rigido. Ecco, questa spesa perché rimane stabile? Anche questa è una cosa interessante, bisognerà vedere poi se anche in prospettiva viene confermata. Per esempio, ci sono dei generi di consumo, degli aspetti del consumo che fanno ormai parte del nostro essere sociale, del nostro modo di vita, del nostro stile di vita, che è difficile altrettanto ridurre. Quindi è più facile ridurre i consumi alimentari rispetto a quelli non alimentari? Si intravede anche questa tendenza, probabilmente anche nel fatto che ben un terzo delle famiglie dice di avere diminuito o la quantità o la qualità. È probabile che per esempio si acquistino dei prodotti più standard, meno sofisticati, e quindi ci sia una modificazione all'interno della composizione della spesa. Questa è una svolta ed è la prima volta negli ultimi 10 anni, una contrazione così non si verificava appunto da 10 anni. Che cosa vuol dire? L'onda lunga della crisi che ha colpito prima naturalmente le imprese, le istituzioni finanziarie, poi si è estesa alle imprese produttive e adesso naturalmente colpisce attraverso l'occupazione, la contrazione dei redditi, i consumi. Questo dovrebbe essere anche un campanello di allarme, a mio avviso, in termini più generali, nel senso che lo sforzo che bisogna fare dopo l'intervento degli stati per sostenere la situazione economica sarebbe rischioso se il necessario rientro e controllo, che pure deve essere fatto, dei conti pubblici si accompagnasse a una spinta deflazionistica di cui questi segnali sui consumi sono purtroppo un campanello, perché questo renderebbe molto più lunga e dolorosa la fuoriuscita dalla crisi. Quindi bisognerebbe comunque aiutare i consumi? Bisognerebbe in qualche modo conciliare, diciamo, un controllo dei conti pubblici con degli stimoli non inflazionistici alla crescita. Così appunto il professor Trigilia, che insegna sociologia economica all'Università di Firenze. Dopo il pubblicità del meteo parleremo anche di consumi e di andamento congiunturale con il ministro Brunetta. L'accordo è di non toccare i temi della finanziaria, visto che è in corso il vertice tra Berlusconi e il ministro Tremonti, quindi è tutto in divenire, né chiaramente le dimissioni di Brancher, che non riguardano questo programma. Per cui parleremo dal punto di vista soprattutto economico di come si tengono assieme queste due cose: alcuni dati economici congiunturali buoni, ma le famiglie italiane che continuano a stringere sui cordoni della borsa. 349-238-6666 per gli sms. Sentiamo prima il meteo. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa ha chiuso, ripeto, Milano la peggiore, -1,20%, -0,3% invece Parigi. Ma restiamo sul tema, su cui vedo anche molti messaggi al 349-238-6666, sul tema dei consumi e dello scenario macroeconomico. Ripeto, adesso ne parleremo con il ministro Brunetta, l'accordo è, ma per motivi anche istituzionali lo rispettiamo ampiamente, che non si parla della manovra finanziaria in atto, c'è l'incontro in corso tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Tremonti, e quindi anche di eventuali tagli, e devo dire che insomma del fatto che il ministro Brunetta sia d'accordo con il ministro Tremonti sul Sud, che si lamenta per i mancati fondi delle regioni, ma poi non sa utilizzare solo una piccola parte dei fondi che arrivano a livello europeo, già oggi ha detto sul Corriere della Sera. Allora, dicevo, parliamo di andamento della ripresa italiana a fronte anche di consumi in calo e dell'impatto che può avere la legge finanziaria su questa dinamica con il ministro alla funzione pubblica Renato Brunetta. Buonasera. Buonasera. La novità di queste settimane ce l'ha detta anche il Centro Studi Confindustria, è che la ripresa c'è ed è più forte del previsto, che già questo 2010 dovremmo avere un segno positivo come andamento del PIL, che si robustirà nel 2011. Beh, questo non è cosa da poco, anche perché veniamo da oltre due anni e mezzo di segni negativi. Beh, se le esportazioni aumentano a due cifre, se gli ordinativi sono in forte aumento, se la produzione industriale è a due cifre, se la disoccupazione è stazionaria, che vuol dire che siamo nella parte concava della curva, se la cassa integrazione, anche questa, segna una sorta di rallentamento, beh, vuol dire che molto probabilmente in Italia come in Europa siamo alla fine di una bruttissima nottata e che sta ricominciando la crescita. Crescita ovviamente ancora incerta, ancora difficile, le borse continuano a procedere a strattoni, però quello che in Europa si sta facendo in termini di politica economica, soprattutto in termini di correzione della spesa corrente e di controllo della dinamica delle politiche economiche dei singoli paesi, beh, questo può far ben sperare per il futuro. Evidentemente non basta, ci vogliono gli investimenti, ci vogliono le riforme strutturali, ci vuole la produttività, però questo è lo scenario che abbiamo davanti. Noi ovviamente siamo tutti preoccupati delle tredicesime del comparto sicurezza piuttosto che della polemica delle regioni del sud o del nord nei confronti dei tagli, però se guardiamo tutto questo fuori dalla stretta logica nazionale o dalla miopia del momento, legittima per carità, ma miopia, e guardiamo tutto questo in un quadro europeo o ancor più mondiale, beh, ci rendiamo conto che un ciclo probabilmente è finito ed è stato un ciclo assolutamente negativo e si sta aprendo un altro ciclo. L'importante è i cicli governarli e governarli con governi forti, con le idee chiare, capaci di fare le riforme, capaci di essere all'altezza di una fase assolutamente turbolenta. Ecco, Ministro, quindi mi sembra di capire che lei veda una progressione, non il temuto da alcuni economisti double dip, cioè doppia caduta, prima una breve ripresa e poi una seconda caduta. È verissimo che i segnali macroeconomici sono incoraggianti, anche gli ultimi. È vero però, visto che lei da veneziano capirà il termine scarsella, quindi il portafoglio è quello con cui poi anche chi ci ascolta, forse sì, con un po' di miopia, ma si concentra. Oggi il dato dell'Istat segnala un calo dei consumi reali dell'1,7% nel 2009, che sappiamo essere anno bruttissimo, primo calo reale da 10 anni a questa parte. Secondo lei, senza poi entrare nei dettagli, perché appunto la manovra è ancora in discussione, ma per forza di cose c'è il rischio che una manovra che deve correggere i conti pubblici abbia una tonalità e un carattere anche recessivo, cioè rallenti la crescita economica che si sta delineando, oppure in realtà esistono quelle che una volta si chiamavano le pieghe di bilancio, insomma, nelle varie elementi di spesa delle misure per non renderla recessiva, per non renderla, diciamo, frenante sulla crescita appena avviata? Ma guardi, l'entità della manovra è 24 miliardi di euro, 24-25 miliardi di euro, sono poco più di un punto e mezzo di PIL. Una manovra di questo tipo non può avere effetti recessivi significativi, anche perché se non si fosse fatta la manovra molto probabilmente avremmo avuto rinculi di tipo credibilità e quindi sui tassi ben peggiori. Pertanto io non credo come impatto diretto recessivo della manovra. Prima cosa. Seconda cosa, riguardo la sua prima osservazione sui consumi. Sta succedendo una cosa strana. È vero, dice l'Istat, sono diminuiti i consumi. Però siccome sono aumentati i redditi sopra l'inflazione e quindi è aumentato il potere d'acquisto del lavoro dipendente e dei pensionati, significa che molto probabilmente è aumentato il risparmio. Strana cosa, Vale a dire, è aumentato il potere d'acquisto, è aumentato i redditi, sono aumentati i redditi monetari sopra il livello di inflazione, ne deriva che se non sono aumentati i consumi, sono aumentati i risparmi, o quantomeno la parte precauzionale della liquidità è aumentata. E forse ne sanno qualcosa banche, depositi per investimenti assicurativi e così via, perché la gente ha paura, perché la gente è immersa nell'incertezza. E il problema dunque è quello di riuscire a dare tranquillità ai consumatori perché ritornino a consumare un reddito che c'è ancora. Ricordo che le dinamiche dei redditi sono andate attorno al 3% dei redditi da lavoro dipendente e da pensioni, l'inflazione è andata attorno all'1%, l'1,2%, l'1,4%, il risultato è che la differenza è stata aumento di potere d'acquisto, e se anche c'è stata una riduzione per i 500-600 mila cassi integrati di reddito reale, chiamiamolo così, il resto, sono circa 30 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, hanno visto aumentare il loro potere d'acquisto. Bene, se i consumi sono diminuiti, vuol dire che sono aumentati i risparmi, non si scappa da questo punto di vista, e questo la dice lunga sullo stato di incertezza e anche sui segnali che dobbiamo tutti dare, i segnali cioè verso una positività della congiuntura che ci sta davanti. Non sarà certamente una manovra fatta solo sulla spesa pubblica, sulla cattiva spesa pubblica da 24-25 miliardi di euro a cambiare i fondamentali di queste macro variabili. Allora sì, ci possono essere anche altri motivi, possono per esempio essere aumentati i consumi indiretti, bollette e quant'altro, però ho capito benissimo il suo ragionamento. Io vorrei chiedere anche e parlare anche dei crediti che le imprese vantano in confronto alla pubblica amministrazione, tra i 40 e i 60 miliardi, di quanto lamenta Confindustria assieme alle altre associazioni di categoria, di che la manovra potrebbe avere un impatto da 3 miliardi. Ma so che lei di questo non vuole parlare, quindi io ringrazio il ministro Brunetta, perché ci interessava comunque capire come vedeva, alla luce anche delle interviste di oggi, il dato sui consumi dell'ISAT. Poi magari avremo modo anche di parlare dei temi che riguardano la finanziaria, la pubblica amministrazione, le tredicesime, le appunto le ha definite, ecco, atteggiamento mio per le tredicesime, per la pubblica sicurezza e quant'altro. Comunque grazie, noi cambiamo tema. Sì, tra gli aumenti vedo anche alcuni di voi segnalano i pedaggi autostradali e quant'altro. Voglio dire, noi tutti prendiamo qualunque, accogliamo qualunque interpretazione. È vero che prima della manovra, che ha bloccato gli aumenti degli stipendi, dei contratti di pubblico impiego fino al 2013, è vero che dal 2008 al 2010 l'inflazione è rimasta bassissima e quindi il lavoratore dipendente ha sofferto meno e dovrebbe aver mantenuto la linea sostanzialmente invariata quanto a introiti. Resta il fatto che, sarà per i timori, sarà per altro, i consumi in calo sono. Vabbè, cambiamo tema, o meglio restiamo sul tema dei consumi. Adesso arriviamo anche alla borsa, ripeto, meno 1,2%. A chi ce lo chiede, ripeto, il ministro Brunetta non ha voluto parlare con noi per quello che riguarda la manovra finanziaria, i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, i 3 miliardi di aumento della tassazione di danno economico che lamentano le imprese, la vicenda appunto tredicesimi e quant'altro, per cui non è che possiamo obbligarlo. Invece sentiamo come va un settore importante. Oggi si è tenuta l'assemblea annuale dell'ANCMA, l'Associazione Nazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori. Stiamo parlando di 170 imprese con 13.500 dipendenti, 5 miliardi di euro di fatturato. Il presidente dell'ANCMA è Corrado Capelli, buonasera. Buonasera a lei. Allora, li vedete questi segnali di ripresa? Devo dire che per ora non ci sono segnali di ripresa. Anzi, il 2009 era stato uguale al 2008 in termini di mezzi venduti e di matricolati, e invece nel 2010, i primi 5 mesi, mostra una flessione del 16%. Questo è dovuto alla crisi generale e dovuto anche al maltempo in qualche misura. Quindi nel settore ciclo e motociclo stiamo parlando di 6.000 punti vendita, se si tiene conto dell'indotto, e quindi non solo ciclo e motociclo ma anche caschi, componenti, accessori, quant'altro, stiamo parlando di 90.000 persone impiegate nel settore. Esatto. Avete avuto i primi mesi dell'anno ancora molto brutti. A giugno com'è andata? Perché il tempo un po' è migliorato a giugno. A giugno non abbiamo ancora i risultati definitivi che dobbiamo raccogliere presso le varie aziende del gruppo, degli associati, ma le prime notizie che giungono sono tutt'altro che confortanti. Allora, per quello che riguarda invece, il meno 33% non vi risulta come vendite? Per i motorini cosiddetti? No, io parlo di 16% di globali, cioè i matricolati e non. Naturalmente all'interno di questa cifra globale sono andati ci sono dati diversi, nel senso che le moto, per esempio, di grossa cilindrata sono aumentate, però in termini di pezzi di fatturati sono abbastanza marginali. Allora, gli incentivi, quanto dipende dalla senza incentivi l'andamento dei primi sei mesi dell'anno, il meno 16%? Enormemente, perché lei immagini che noi l'anno scorso abbiamo avuto 130 milioni di incentivi e quest'anno abbiamo avuto 12 milioni, quindi, che oltretutto incentivi sì, incentivi no, quanto, hanno contribuito ad affermare il mercato perché creavano attesa. E quindi abbiamo perso l'occasione non solo di far bene all'industria italiana del settore, ma anche di rinnovare il parco circolante, che per il 60%, oltre il 60%, è composto da moto inquinanti, quindi Euro 0, Euro 1, eccetera. Ecco, qualcosa si muove invece sul fronte accordi per l'esportazione, perché sia in Brasile sia in Cina, cioè, vi state muovendo con vari accordi. Vorrei parlare dopo il traffico, vorrei anche chiudere il tema del ministro Brunetta. Allora, se il ministro Brunetta non vuole rispondere alle domande, mette giù il telefono quando prima ancora di ascoltare i saluti, che cosa dobbiamo fare? Ognuno si comporta come vuole. Noi volevamo parlare di macroeconomia e di questo abbiamo parlato. Secondo noi la manovra avrà un impatto anche recessivo sui consumi, secondo il ministro Brunetta no, tutto qui. Dopodiché non è che si possono obbligare le persone a parlare anche dell'aumento della spesa nel pubblico impiego, su cui siamo d'accordo, l'abbiamo detto per settimane intere, questo è. Allora, traffico e poi le iniziative all'estero e poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, chiudiamo questo piccolo approfondimento sul settore del ciclo e motociclo, almeno qui parliamo di dati concreti. Dicevo, difficile l'andamento delle vendite a giugno, meno 33% per le due ruote a motore, male anche i primi mesi dell'anno, contano e sicuramente pesano l'assenza di incentivi, i primi sei mesi del 2010 meno 16,6%. Al presidente dell'associazione di categoria, che è l'ANCMA, quindi il presidente Capelli, vorrei però sapere che cosa state facendo sul fronte internazionale, cioè là dove c'è la ripresa. Brasile, se ho ben visto, un accordo per un distretto motociclistico nella zona di Manaus, ma anche c'è come China, cioè voi andate e partecipate attivamente al Salone della Moto e del Motociclo in Cina, che si è praticamente appena chiuso dall'11 al 13 giugno. Prego, Presidente. E allora siamo stati appunto ad inaugurare il primo Salone della Moto, EICMA China, e con soddisfazione dobbiamo dire che ha preso il nome dalla manifestazione che facciamo a Milano, che è la più importante ormai del mondo, per cui ci auguriamo che questa presenza di prodotti anche italiani e soprattutto italiani in Cina portino a un incremento di vendite su questo mercato. I padiglioni erano molto belli, abbiamo esposto il meglio della produzione italiana del settore, abbiamo notato un grande interesse anche da parte degli, dei cinesi stessi, dei clienti cinesi, delle aziende, del pubblico, per cui ci auguriamo che sia l'inizio di una penetrazione non solo di ricerca di prodotti da importare in Italia, ma bensì di prodotti finiti da esportare in Cina. E anche in Brasile, però, con questo distretto in cui andranno a produrre molte imprese italiane, tra l'altro godendo di sgravi fiscali per la regione di Manaus, no? Almeno, esatto. Perché il 60% dei ciclomotori verrà sostanzialmente fabbricato lì, il 40% invece arriverà dall'Italia, se ho ben capito. Sì, indubbiamente ci saranno dei prodotti, dei pezzi che saranno montati lì, perché l'iniziativa sta partendo, per cui non si può produrre in maniera verticale, ma comunque in buona sostanza è un mercato che è 2 milioni di moto, mentre ricordiamo che l'Italia è 400.000 moto, certo. Per cui ci sono enormi possibilità da parte delle aziende italiane, maggiori produttrici di grandi marchi di moto, e soprattutto anche per i componentisti, che è la categoria dell'associazione che soffre oggi per l'importazione invece dalla Cina di pezzi di primo montaggio. Per cui ci auguriamo che questo porti veramente a un sollievo per queste aziende, che potranno esportare in grande mercato. Certo. Poi abbiamo trovato una grandissima cordialità, al di là delle formule burocratiche di maniera, di buona intenzione, veramente una cordialità toccata con mano da parte dei vari ministri interessati brasiliani, dai funzionari di che sovrintendono la Stato dell'Amazzonia di Manaus, e desiderano proprio interagire con noi italiani. Beh, bocca al lupo quindi a tutte le imprese associate, sono oltre 170, ai 14.000 dipendenti coinvolti, ai 90.000 dipendenti del settore, e appunto in bocca al lupo anche per queste iniziative internazionali. Grazie a Corrado Capelli, presidente di ANCMA. Grazie a lei, buonasera. Almeno lui ha salutato, diciamo, no? Va bene, ma allora dico, poi se la chiudiamo con il ministro Brunetta. È chiaro che Brunetta parla da economista ma anche da ministro del governo, e quindi cerca di dire che non è vero che la situazione è messa così male, secondo una linea che il governo sta tenendo da tempo, forse meno una linea meno spesa dal ministro Tremonti, che invece ha sempre fatto notare sui conti pubblici quanto è e com'è la situazione. Molti di voi scrivono, attenzione, magari gli stipendi lordi sono aumentati, rimasti invariati, ma poi è aumentata la tassazione di fatto sulla parte netta, sono aumentati i costi indiretti. Lo so, insomma, noi ci occupiamo di numeri, e i consumi sono in calo per la prima volta da 10 anni in termini reali, punto e basta. La borsa come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, per quello che riguarda la borsa, oggi c'è Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. Meno 1,2% Milano, meno 0,5% Parigi, meno 0,3% Francoforte. L'America? L'America è chiusa, brava, oggi, per pessimità. Meno 0,3% Londra. Allora, l'euro a quota 1,25,32. Molto bene, Atlantia più 2,7%, Autogrill più 1,4%, Unipol più 1,3%, Pirelli più 1%, Estima Electronics più 0,70%, Bulgari più 0,6%. Atlantia, visto che siamo in tema di consumi e tasche degli italiani, grazie ai pedaggi? Ma in realtà Atlantia, che oggi è arrivata a guadagnare fino al 5,2%, ha beneficiato più che altro, allora, da una parte dei rumor relativi a un cambio nell'azionariato dell'azionista spagnolo Abertis, e dall'altro dall'acquisto di titoli da parte del socio di riferimento Sintonia. Infatti Abertis alla Borsa di Madrid è arrivata a guadagnare più o meno il 12% ed è stata poi sospesa sulla scia dei rumor secondo cui i due soci di riferimento starebbero studiando l'acquisto del del controllo della compagnia insieme ad un fondo di private equity per un valore della compagnia intorno a 25 miliardi di euro, quindi questa comunque messo, ci ha puntato i riflettori anche sulla società partecipata Atlantia. Autogrill, una battuta, visto che l'euro si rafforza? Allora, Autogrill, l'euro oggi si rafforza, però in realtà ha recuperato terreno il titolo dopo aver perso il 4% circa nelle ultime due sedute, quindi in realtà si tratta di un recupero. Va bene, gli altri titoli, quelli che più hanno perso invece, mi riferisco al Banco Popolare meno 3 come Tenaris, ma anche Saipem meno 2,7, la Popolare Milano meno 2,2 come Intesa San Paolo. Dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms, poi il rapporto Mediobanca e i conti di Alitalia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa e poi passare ai conti, agli accordi di Alitalia. Per quello che riguarda il rapporto Mediobanca sulle multinazionali, lo slittiamo domani. Già le notizie principali ve le abbiamo date, ma c'è un'intervista che vorrei farvi ascoltare per esteso. Allora, Livia Zancaner, dicevamo bene alcuni titoli, soprattutto Atlantia, Autogrill e Pirelli, male Banco Popolare meno 3%, e tra le banche anche la Popolare di Milano meno 2,2, Intesa meno 2, Generali meno 1,6, Unicredito contiene leggermente il danno, ma il danno, il calo più che danno, oggi di danno non si può parlare. Monte dei Paschi perde lo 0,83%, Unicredito l'1,5%. Bancari deboli. Allora, le banche hanno risentito in particolare dei timori per i risultati degli stress test che dovrebbero essere pubblicati secondo le attese il 23 luglio, in particolare Milano è stata penalizzata appunto dal calo del comparto bancario che insieme agli assicurativi rappresentano più o meno il 30% dell'intera capitalizzazione della nostra borsa. Allora, i peggiori appunto sono stati il Banco Popolare e BPM. Allora, sul Banco Popolare, secondo operatori ed analisti, vi sono dei timori nel breve periodo circa il rischio di un aumento di capitale da realizzarsi subito e quindi la pubblicazione degli stress test sulle banche europee potrebbe portare gli investitori a spostarsi sulle banche che sono maggiormente capitalizzate. Per quanto riguarda invece BPM, allora la notizia di oggi è che la Consob ha chiesto all'istituto di convocare il CDA per una corretta applicazione della direttiva MiFID, una richiesta che era già stata inoltrata nelle scorse settimane nei confronti di altre 5 grandi banche. Quindi soprattutto gli stress test che stanno stressando innanzitutto il mercato. Vabbè, Tenaris meno 3%, Saipem meno 2,70%? Allora, le azioni hanno risentito in particolare del calo del comparto materie prime, quindi che in Europa ha perso l'1,93%, con il petrolio che ora viaggia in ribasso a 71,5 dollari al barile, anche se in realtà il comparto energia poi è chiuso in rialzo dello 0,2% circa. E quindi a spingere, a sostenere le azioni sono state in particolare i guadagni di BP a Londra, che è salita più o meno del 3,8% dopo la notizia che la Libia sta valutando la possibilità di entrare nel capitale della società britannica, visto il crollo delle azioni negli ultimi mesi. Allora, ancora un paio di notizie. Telecom Italia, che da praticamente dal 28 giugno ha perso il 6%, e anche oggi il titolo non va malissimo, ma diciamo così, soffre. Sì, allora, in realtà qua, per quanto riguarda il meno 1,28 per la precisione. Sì, per quanto riguarda il settore, nelle ultime settimane, in particolare dall'adozione delle misure di austerità da parte dei governi, vi sono delle indicazioni discordanti, perché da una parte gli esperti, comunque gli operatori, stimano un'ulteriore pressione sul comparto per una riduzione dei consumi proprio in conseguenza alle misure di austerità. Dall'altra parte però altri stimano una ripresa per le compagnie europee delle telecomunicazioni per i buoni dividendi e i flussi di cassa in un mercato che invece tornerà debole a causa dei tagli alle spese dei governi e un deterioramento delle condizioni finanziarie. Per quanto riguarda poi Telecom in particolare, vi è sempre lo stallo in Spagna per quanto riguarda l'acquisto, cioè l'offerta lanciata dall'azionista di Telecom Telefonica su Vivo, in quanto appunto il governo ha messo il veto sull'offerta, quindi sulla cessione da parte di Portugal Telecom della propria quota in Vivo al gruppo spagnolo. Ultima notizia riguarda la Roma Calcio, anche perché voi avete dato degli aggiornamenti come Radio Core proprio sulla vicenda Roma, l'incontro tra la presidente della Roma Sensi e il gruppo Unicredito. Molte le attese, ci sono sviluppi, perché tutto si è bloccato poi con un rinvio dopo le 18, se ho ben capito. Infatti tutto è stato, cioè l'esito verrà comunicato dopo le 18, probabilmente a borsa chiusa, perché come sappiamo l'Essere Roma è un titolo quotato. In realtà il mercato appunto scommette sul fatto che venga trovato un accordo tra Italpetroli, quindi la famiglia Sensi, e Unicredito, e quindi vi scommettono appunto su un cambio di proprietà del club giallorosso, che quindi dopo 17 anni vedrà cambiare proprietario. Che andrebbe al milanesissimo e interista, se non ricordo male, Alessandro Profumo, sì, a questo punto. Sì. Vabbè, questi sono conflitti che riguardano il mondo del calcio. Il titolo comunque guadagna il 7,2%, è tra i migliori, assieme a Fintel, Energia Group più 13,7%, assieme a Carrefour più 6,9%, a Crespi più 6,4%. Tra chi invece va peggio segnaliamo Pininfarina meno 4,60%, BMW meno 4,70%, Isagro meno 4,80%, Piaggio meno 4,1%, Marcolin meno 4,85%. Grazie a Livia Zancanella, Radio Cori, Sole 24 Ore. E allora, come annunciato, occupiamoci di Alitalia, tanto che non lo facciamo, abbiamo raccontato in questi mesi i conti mentre uscivano. Oggi su Alitalia ci sono due notizie importanti, una che riguarda, diciamo, il progetto industriale e i conti, l'altra invece le alleanze, anche in questo caso industriali. È entrata infatti Alitalia nella joint venture transatlantica, quella per i voli soprattutto per l'America, quella con Air France, KLM e Delta, nel giorno in cui l'amministratore delegato di Alitalia, Rocco Sabelli, ha anche commentato l'andamento dei primi sei mesi. Allora ringrazio l'amministratore delegato di Alitalia, Rocco Sabelli, per essere in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera a lei. Prima del traffico, poi andremo sugli altri temi. Oggi alcuni giornali titolavano, l'ingresso dell'Italia nella joint venture con Air France, KLM, Delta è il primo passo verso una fusione con i francesi. Lei ce lo smentisce? Semplicemente dico che non abbiamo nessun piano di questo genere. Poi il resto, naturalmente, ognuno può fare le sue congetture. Il tempo ci dirà cosa succederà, ovviamente. Ecco, questo accordo di fusione della joint venture transatlantica, che cosa prevede poi operativamente per chi deve prendere l'aereo, banalmente? Diciamo, per chi prende l'aereo, soprattutto per i clienti italiani, banalmente significa che noi ampliamo in maniera ragguardevole il portafoglio d'offerta, quindi le destinazioni servite verso il Canada, gli Stati Uniti e il Messico. I clienti italiani, attraverso 7 hub, 3 europei tra cui Fiumicino e 4 nordamericani, saranno connessi a oltre 250-260 destinazioni americane. Lo potranno fare comprando, attraverso i front-end di Alitalia, quindi il web, le biglietterie, il call center, un solo biglietto per l'intero viaggio, ad un prezzo che per tutte le tratte del viaggio sarà allineato per tutti e quattro i vettori, quindi un prezzo solo e quindi un prezzo evidentemente più economico, e partecipare, una cosa che è molto, molto gradita da parte dei viaggiatori, partecipare ad un programma di accumulo delle miglia che si matureranno su tutte le tratte, tutte le destinazioni che su questo portafoglio più ampio i clienti potranno accumulare. Ecco, se ho ben capito, tra l'altro, con questa alleanza voi entrate nel consorzio, chiamiamolo così, nell'alleanza che ha il 26% dell'intero giro d'affari delle rotte transatlantiche, con ricavi annui stimati in circa 10 miliardi di dollari, per cui oltre ai 20 voli giornalieri tra cinque scali negli Stati Uniti che partono da Roma, Fiumicino e Milano Malpensa, se ne aggiungeranno degli altri potenzialmente, se ho ben capito, dottor Sabelli? Così noi i dati che lei dà sono corretti. Ecco, mi piace sottolineare, pur con la sobrietà che un'azienda come la nostra deve avere, che questa è la joint venture più importante nel mondo del settore aereo per dimensioni, ma soprattutto è la più evoluta come modello, perché rispetto ai classici modelli di anche la stessa SkyTeam di alleanza commerciale, qui abbiamo ampiezza e profondità delle aree di cooperazione che sono assolutamente avanzate, che nessun'altra joint venture ha nel mondo e che consentono, oltre ai vantaggi per i clienti che ho appena terminato di dire, anche benefici importanti sulla scala, economie di scala, sui ricavi, su costi per le aziende che vi partecipano. Mi faccia dire che è sulla base di una credibilità e di una fiducia che evidentemente stiamo riconquistando a livello internazionale che noi siamo entrati in questa joint venture e lì il lavoro, il duro lavoro di tutte le persone di Alitalia ha avuto un frutto positivo oggi, o almeno un primo frutto. Allora, le chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi ancora un paio di domande per lei, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Rocco Sabelli, amministratore delegato di Alitalia, voi oggi avete anche diffuso alcune indicazioni sui ricavi nei primi sei mesi dell'anno. Ricavi e passeggeri, fermo restando che la nube islandese ha penalizzato tutte le compagnie aeree, come sono andati i ricavi del gruppo Alitalia e anche i passeggeri? Bene, i passeggeri, mi riferisco ai dati anno su anno, al primo semestre 2010-2009, sono cresciuti del 3%, la nostra stima abbastanza ragionevole e che in assenza delle interruzioni di aprile e maggio per la nuvola che poi ci ha toccato abbastanza limitatamente rispetto agli altri, avremmo potuto probabilmente raddoppiare questa crescita, essere intorno al 5-6%, quindi qualche centinaio di migliaia di passeggeri in più. Bene soprattutto i ricavi, che è questo che ci incoraggia, perché i ricavi anno su anno sono cresciuti del 10% e sono cresciuti i prodotti che tipicamente per l'Italia hanno rappresentato sempre un elemento di debolezza, il traffico intercontinentale più 30%, quello internazionale più 14%. Vediamo che anche il traffico domestico, soprattutto negli ultime settimane, comincia a muoversi. Nei primi mesi l'Italia ha ancora avvertito i segni di una difficoltà economica, quindi il mercato è stato abbastanza stabile, ma per fortuna gli ultimi 3-4 settimane cominciamo a guardare con buona fiducia anche il traffico domestico. Struttura di business e soprattutto la nostra struttura di costo fa sì che non appena i ricavi crescano in maniera significativa a due cifre, ovviamente il beneficio sui nostri conti è immediato. E io spero che al Consiglio del Comitato Esecutivo del 30 luglio noi si possa registrare per l'intero semestre un miglioramento importante sotto il profilo delle perdite rispetto al 2009. Allora, come va la disponibilità finanziaria, da sempre elemento critico in Alitalia? Perché abbiamo avuto indicazioni, insomma, in chiaro oscuro negli ultimi mesi. In cassa quanto avete? Ma diciamo, è una informazione che abbiamo fornito e che facciamo volentieri anche mese per mese, sappiamo che è un elemento di grande attenzione per tutti gli osservatori. Noi a giugno, poi ovviamente il bilancio darà tutti i dettagli relativi, ufficiali, ma abbiamo disponibilità finanziarie tra cassa e linee di credito disponibili di poco inferiori ai 500 milioni di euro. Tenga conto che una società con la nostra dimensione, per avere un buffer di assoluta tranquillità, può stare intorno ai 200 milioni di euro. Questo ci consente ovviamente, con tutta l'attenzione che questo richiede, di mantenere i nostri programmi di investimento, quindi il rinnovo della flotta, gli investimenti sui sistemi, il miglioramento della performance operativa e quant'altro. Allora, dottor Sabelli, un'ultima domanda. Sì. Per quello che riguarda invece una questione che vi vede anche contrapposti con la società Aeroporti di Milano. In sostanza, la SEA, e mi riferisco al presidente Giuseppe Bonomi, sostiene che voi tenete bloccati gli slot sono i diritti, diciamo, degli aerei per atterrare e decollare, non li usate, però non li volete cedere, e dice Bonomi in dichiarazione oggi, dice: attenzione, noi abbiamo ricevuto 54.000 richieste di slot sia Malpensa che soprattutto Linate, ma l'Italia li tiene bloccati, non li usa, non li mette sul mercato. Praticamente il 69% degli slot ne usate poco meno della metà. E allora, secondo questo motivo l'INATE ha perso oltre 2 milioni di passeggeri. Perché se non li usate questi slot, questi diritti? Perché non è vero. Ci dica. No, perché io adesso ho letto un po' anche le dichiarazioni di Bonomi, sono quasi certo che abbia detto delle cose un po' diverse, di contesto diverso. Ecco, se fossero queste le affermazioni, io posso tranquillamente dire che noi abbiamo gli slot, circa il 70% della capacità di Milano, perché sono nostro diritto, che li usiamo, perché se non li usassimo sempre per obblighi e per diritti degli altri ci verrebbero tolti, come per esempio qualche altro aeroporto tipo Malpensa, in parte a Fiumicino ci vengono tolti, perché esiste una regola molto ferrea che non è nelle nostre mani, ma è nelle mani dei regolatori, che se lei per un periodo non usa gli slot li vengono ritirati, non ce li tolgono semplicemente perché li togliamo. Quanto al traffico di Linate, i numeri che di cui parla, di cui sento parlare, sono un numero di dimensioni ovviamente importanti. Sulla Milano-Roma noi abbiamo 1,5 milioni di passeggeri l'anno, quindi quando si parla di 2 milioni di riduzione, immagino che si riferisca a noi. Che ci siano degli interessi a acquisire una risorsa strategica come gli slot Roma-Milano, noi ne siamo consapevoli, ma riteniamo che sia nostro diritto competere in termini di prodotto, ma difendere i diritti che abbiamo. Mi scusi su questo, però vorrei capire, al di là de, cioè, se voi li usate, allora noi li usiamo. Ma li usate a pieno regime, diciamo, li usate tutti, perché Bonomi questa cosa l'ha detta anche noi molte volte, dice insomma l'Italia anche su Malpensa tiene bloccati i diritti perché li ha. No, ma noi non possiamo tenere bloccati i diritti, guardi che non abbiamo questa facoltà, noi se non usiamo gli slot ce li tolgono, quindi c'è poco da... E quando mi dice che sulla tratta Milano-Roma invece voi comunque volete avvalervi della possibilità di mantenere quella tratta strategica, cosa vuol dire? Perché loro... che abbiamo assegnato una capacità che è il 70% di cui parliamo, la usiamo e continuiamo a difenderla. C'è evidentemente un interesse, perché è una rotta importante di qualità, a entrare da parte di altri competitor, però esistono delle regole, esistono dei diritti acquisiti e noi quelli sono diritti che intendiamo mantenere. Dottor Sapelli, tutto qua, perché siccome riavremo ospite anche il presidente degli aeroporti di Milano Giuseppe Bonomi, io su questo vorrei far chiarezza. Voi gli slot che avete, siamo disponibili a discuterne anche voi i diritti che avete li usate, non fate in qualche modo concorrenza sleale, mi passi il termine, dicendo tenendo bloccati questi diritti e non utilizzandoli e non dando la possibilità a altre compagnie di concorrere. Un'abitudine e non potremo comunque farlo. Basta. Ne prendiamo atto, quindi a questo punto si sarà sbagliato anche il presidente della SEA nelle dichiarazioni che abbiamo visto sui giornali. Grazie e in bocca al lupo anche per i conti di Alitalia, come di qualunque società che intervistiamo. Grazie al ministro delegato di Alitalia, Cairo Cosabelli, che ha salutato, come avete sentito. Un ultimo flash di agenzia. La presidente Confindustria, Emma Marcegaglia, poco fa ha detto: abbiamo, in merito alle polemiche sui costi per le piccole e medie imprese della manovra finanziaria, ha detto abbiamo espresso alcune perplessità sui temi fiscali e sul problema dell'articolo 45 che riguarda le energie rinnovabili e i certificati verdi. Qualche minuto fa ero al telefono con il ministro Tremonti e il presidente Berlusconi e penso di poter dire che le nostre richieste sono state accolte, quindi dovremmo andare verso la soluzione dei problemi che avevamo sollevato. Vabbè, e con questa puntata fa anche il suo esordio un passaggio di testimone tra il sottoscritto e il programma che da sempre ci segue, ossia la Zanzara di Giuseppe Cruciani. Giuseppe, buonasera. Io dentro Focus Economia, più che altro il programma. Che insulto alla serietà di questa trasmissione. Di certo. Allora, ti do uno spunto, visto che facciamo la battuta, forse ti ripeto la prima parte con Rocco Sabelli, insomma... Che non ero così freddi, ma andiamo bene. Ma la battuta era riferita al fatto che il ministro Brunetta, nella prima ora del programma, nostro ospite per parlare chiaro della situazione economica generale, della macroeconomia, ha detto che non è vero che le famiglie italiane si sono impoverite nonostante il dato di Istat di oggi che segnala dei consumi in calo come mai da 10 anni. Ha sostenuto, e ne ha perfettamente diritto, che gli stipendi dei lavoratori dipendenti sono aumentati. Il problema è che se ne è proprio andato al telefono nel momento in cui volevamo sapere di cosa intende fare per questi 40-60 miliardi di euro che per esempio le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, cosa succede alle tredicesime dei poliziotti, non si può parlare di questo. Ti occuperai di questo, mi sembra evidente, nervosismo nel governo? Beh, certo, perché tutti vogliamo sapere come va a finire questa partita tra Fini e Berlusconi, in cui c'è di mezzo naturalmente anche Tremonti. Ne parleremo con chi non ha problemi di vivere e di procurarsi la pagnotta quotidiana, con uno plurimiliardario e dunque la persona giusta, come Santo Versace, che però è anche deputato del PDL. Poi ci sarà, come al solito, nel caravanserraglio della Zanzara anche Luca Telese, e poi una puntata sulla vicenda ancora del consigliere provinciale del PDL coinvolto nella storia di coca e trans. Eccoci. Allora, immagino, e ti auguro comunque che non ti sbatta giù il telefono Santo Versace, difficile. No, molto difficile, anche perché Brunetta non è la prima volta che fa questi scherzetti, ne sappiamo qualcosa, ma non ti deve sorprendere, Brunetta, no. Brunetta è fatto così, quando non gli va a genio una domanda, spesso si arrabbia. E se ne va. Va bene, va bene. Allora, grazie Giuseppe Cruciani, che adesso ascolteremo con la Zanzara. Per quello che riguarda Focus Economia è veramente tutto, vi do l'ultimo aggiornamento. Da che cosa? Da niente, perché l'America è chiusa, come ben sapete, Independence Day, oggi le borse meno 1%, a Milano meno 1,3%, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, dopo pubblicità e meteo, la Zanzara. Radio 24, la passione si sente.